fuoco, senti come brucia, ascolta. Non so né quando né perché né come mi ha preso. So solamente che un giorno si è acceso e libero mi ha reso immune alle mode di costume, alla coscienza spenta che rimane un mal comune nella mia città. Esente mi rende dal contagio della uniformità ideologica, statica, arida. E al di là di questo guida ogni mio gesto, scrive ogni mio testo. E quando tutto è freddo io bollente resto. Ogni parola una scintilla che brilla di bella, favilla che favella e che strilla dal centro del mio fuoco che Dio mi ha regalato. C'è chi a spegnerlo ci ha provato, ma sei bruciato. Senti come brucia il mio fuoco. A rimaner seduta, muta, non agisce e subisce ogni sfiga della vita. Ti ha detto che tutti siano nel stesso mondo con le stesse carte da poter giocare. Non ha tenuto conto che troppi sono bravi a barare. E solo dopo aver perso per anni ho capito che il metodo è giusto per poter riuscire ad avere qualcosa di buono da questa partita, impegnare la testa. E quindi ogni sfiga affronto senza mai barare al gioco. Credici, puoi metterci la mano sul fuoco. Fuoco nelle rime, fuoco nelle vene, fuoco in questo suono. Brucia impulsi negativi per donare qualcosa di buono. Per cui resta in mezzo in posizioni non accetto. E più il silenzio è fitto e meno io sto zitto. Il mio fuoco m'ha insegnato a dire no, a credere che emergere sì può. Eppure se non so il futuro cosa potrà riservarmi, so che di sicuro il mio fuoco sarà lì a scaldarmi.